Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Se siete anche voi vittime, per così dire, dell'acquisto d'impulso, caramelle, snack e dolciumi vari alla cassa del supermercato, per voi o per i vostri figli vi farà sicuramente riflettere l'annuncio di un'importante catena di supermercati. Vi raccontiamo tutto tra pochissimo. E poi sapete qual è il nuovo oggetto, la nuova pratica antistress? I libri da colorare per adulti, un boom da milioni di copie in tutto il mondo, una moda esplosa anche in Italia, sta diventando un vero e proprio fenomeno di costume. Se avete in previsione una gita fuori porta a novembre, iniziate a pensare a che cosa potete offrire in cambio dell'ospitalità. Mettete a frutto un vostro talento nella settimana del baratto in centinaia di bed and breakfast in tutta Italia. Focus sui trend dedicato infine ai consumi letterari, quando i libri fanno tendenza al di là e al di fuori delle librerie. Qual è l'area del supermercato dove i bambini fanno più capricci? La risposta è molto facile: le casse. Spesso teatro di vere e proprie battaglie per l'acquisto di caramelle, snack e dolciumi vari. Difficile per il bambino seduto nel carrello o nel passeggino resistere all'esposizione che si trova davanti, difficile per i genitori o per i nonni dire di no. Ecco perché ci sembra una decisione commerciale coraggiosa che va incontro alle nuove sensibilità dei consumatori, all'insegna di una spesa consapevole, quella della catena di supermercati U2 del gruppo Unes. La decisione di togliere i dolciumi dalle avancasse entro il 2016, sostituendoli con prodotti sani come gli snack alla frutta. In questa posizione, pensate, i supermercati vendono oltre il 20% degli snack dolci, con una media di vendita superiore a qualsiasi altra area del punto vendita. Nel 2008 per primo in Europa la catena di supermercati francese Leclerc aveva fatto un annuncio analogo, seguita quest'anno in Inghilterra da Lidl e da Tesco. Ne abbiamo parlato con Roberto Lapira, direttore del Fatto Alimentare, promotore un anno fa di una petizione sul tema. Grande soddisfazione, perché vuol dire che è possibile. Grande delusione, perché ne aveva fatto una campagna un anno fa, una raccolta firme su change.org, che ha raccolto 14.000 adesioni. E abbiamo mandato una lettera a tutti i supermercati dicendo: ma perché voi non fate come altre catene di supermercati, come ad esempio Leclerc in Francia, oppure come Tesco e Lidl in Inghilterra, che hanno preso un'analoga decisione più di recente? Perché la delusione? Perché non ci ha risposto praticamente nessuno. Ricordiamo proprio in termini, come dire, strategici per la grande distribuzione, che cosa significa posizionare questi prodotti alle casse. Il motivo per cui c'è stato questo rifiuto da parte dei supermercati di accettare la nostra proposta, di aderire al progetto, è di tipo prettamente economico. Perché? Ogni grande azienda che espone questi prodotti alimentari paga circa 1.000 euro per cassa, per prodotto. Basta fare i conti, ci si rende conto. Questo perché? Perché è il posto migliore dove esporre i prodotti, è piccolo lo spazio ma ha una grande resa e quindi dà un ottimo incasso. Valutando nei metri quadrati, lo spazio delle avancasse rende 2-3 volte di più rispetto a tutti gli altri scaffali del supermercato. E questo è molto importante per le catene e non vogliono rinunciare. Un'altra cosa che abbiamo notato: i prodotti alle casse esposti, snack, caramelline, eccetera, hanno un costo doppio o triplo, parliamo di 40-50 euro al chilo, perché uno lo compra, costa 1 euro, 50 centesimi. Le caramelle hanno un costo di 40-50 euro al chilo, anche altri prodotti, che è praticamente il doppio o il triplo rispetto ai 15-20 euro al chilo degli altri prodotti simili che trovi sullo scaffale. Quindi c'è un altro elemento da considerare. sono motivazioni di carattere puramente commerciali e si tratta di prodotti ricchi di grassi, ricchi di sale e ricchi di zucchero. Sono poi tre problemi dell'alimentazione non solo dei bambini ma anche dei grandi. Gli stessi prodotti possono essere messi sullo scaffale, voglio dire, non è che si decide non venderli, cioè, non è che siamo così censori, però metteteli sullo scaffale insieme a tutti gli altri dolci e snack e senza fare l'acquisto d'impulso, che è una metodica un po' selvaggia di vendita che però funziona sempre. È vero che ne hai viste tante, ne hai viste di tutti i colori? Di tutti i colori, Tonina. Ho visto il rosso, l'azzurro, il giallo, il blu, molto blu, tanto blu. Il colore buono è bianco, perché rimane fedele. Il resto si ribella. Il grigio si intristisce e butta acqua. Il viola scappa al tramonto. Il nero si fa nero. Il rosso dura poco. Il giallo brucia tutto. E l'azzurro costa caro. E a fare il cielo ce ne vuole, mica solo un tubetto. Però i colori sono belli visti da dietro. Te l'hai mai visto il rosso da dietro? Non sta fermo, cambia. Se gli vai addosso schizza via come un gatto. Dopo il successo negli Stati Uniti, in Inghilterra, Francia e Spagna, è boom anche in Italia per i coloring books, i libri da colorare per adulti. Ne ha parlato anche il New York Times citando un titolo come Secret Garden, che figura, pensate, tra i primi 5 bestseller di questo mese. In Francia vendono più dei libri di cucina, stanno diventando non solo un fenomeno di mercato ma anche di costume. Gli esperti parlano di una nuova pratica antistress. Ne abbiamo parlato con Ivo Milazzo, illustratore e fumettista, presidente di Autori di Immagini, l'associazione che raggruppa i professionisti dell'immagine illustrata in Italia. Intanto credo che sia stata una riscoperta e una maggiore attenzione del pubblico nei confronti della libreria e del disegno, perché in realtà il mondo dell'illustrazione si è perso negli anni, tant'è vero che i giornali e le riviste che una volta erano molto legate al mondo dell'immagine disegnata hanno perso questo valore, in quanto è un costo maggiore chiaramente per una redazione, ma è una forma di comunicazione di grande fascino per il pubblico, perché permette di essere complementare alla parola scritta e rimandare sicuramente qualche cosa di maggior forza sia a livello cosciente sia a livello di subconscio, ecco. C'è un aspetto terapeutico, antistress dell'esercitazione nell'illustrazione? Credo che per un pubblico chiaramente che fa altro nella vita sia la possibilità di uscire da tutte quelle forme che in qualche modo ci portano a essere soggetti a autoconvincimenti provenienti da altri come la televisione o anche il mondo virtuale, che certamente è una grande forma di comunicazione ma rimane sempre qualcosa che deve essere conosciuto più in maniera più approfondita, perché contiene di tutto e di più, quindi cose positive ma spesso cose negative. La carta stampata secondo me ha un fascino incredibile, perché ti permette proprio di interagire a livello personale con qualche cosa di materiale, quindi che ti permette di esprimere una tua forma creativa anche a livello inconscio, con l'assemblaggio anche di colori, quindi con un tuo gusto creativo, un tuo gusto artistico, un tuo gusto cromatico, e che ti fa uscire dal tuo personale di vita, di lavoro e quant'altro. Nel mondo del digitale, in cui tutto è un click, un touch, anche il recupero proprio del gesto, del tratto, del colore, della fisicità della carta è una bella cosa, trovo, insomma, da raccontare e da provare. La materia sicuramente è qualche cosa che racchiude un fascino assoluto, perché ti permette il contatto diretto con la realtà. Anche il book crossing diventa 2.0 e si fonde con il ticket crossing, regalando viaggi in metro in compagnia di un buon libro. È uno dei casi che vi raccontiamo nella seconda parte. Parleremo di consumi letterari, ma anche della settimana del baratto e, per le parole chiave del marketing e della comunicazione, di longevità. Tra pochissimo, restate con noi. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. vi presenta Essere e Avere. Di nuovo in studio con Essere Avere, parliamo della settimana del baratto che torna dal 16 al 22 novembre, segnatevi le date, in centinaia di bed and breakfast in tutta Italia. Sarà possibile soggiornare gratuitamente in cambio di beni o servizi proposti dai viaggiatori o richiesti dai gestori. Dai prodotti tipici alla realizzazione del sito oppure del servizio fotografico fino ai lavori di giardinaggio o di manutenzione in genere. Quella di quest'anno è la settima edizione, ad organizzarla come sempre il portale bedandbreakfast.it. Lucia Nifosi. I viaggiatori possono andare incontro a dei desideri del bed and breakfast, che possono chiedere delle collezioni di dischi o dei libri o anche dei mobili di antiquariato. Di sicuro la fantasia è la caratteristica della settimana del baratto. E anche per quanto riguarda i servizi, sul sito, che lo ricordo, è settimanadelbaratto.it, si possono leggere le proposte che provengono dai viaggiatori innanzitutto, ma anche dai bed and breakfast, che nella lista dei desideri spiegano quali potrebbero essere dei desideri, dei baratti a cui loro sono più favorevoli, per cui possono chiedere di dare un aiuto nella manutenzione casalinga, quindi imbiancare le pareti o le inferriate, dare una mano nella coltivazione dell'orto, nella potatura degli alberi. Quindi avessi in programma un viaggio per quella settimana e volessi sfruttare l'occasione, che cosa devo fare? Basta individuare innanzitutto una struttura, ma anche una regione dove si vuole andare a trascorrere una settimana o qualche giorno all'interno della settimana del baratto dal 16 al 22 novembre. Si contattano i bed and breakfast che si trovano all'interno del sito e si propone il baratto. Si può scrivere ai gestori un'email, si possono contattare telefonicamente, sul sito ci sono tutti i contatti, oltre che la descrizione della struttura, e al lato, nella pagina di ogni struttura, naturalmente ci sono i desiderata dei bed and breakfast, anche per dare un input ai viaggiatori che possono anche trovarsi in difficoltà nel momento in cui devono immaginare o proporre un baratto. È un'iniziativa che ha raccolto sempre più consensi negli anni, possiamo dare qualche numero? Diciamo che la sesta edizione sono stati circa 2005 bed and breakfast in tutta Italia, in tutte le regioni d'Italia, a partecipare, ad aderire alla settimana del baratto, per un numero di viaggiatori che si aggira intorno ai 10.000, così dai calcoli che abbiamo fatto. E per chi, voglio ricordare, non potesse partecipare in questo momento dell'anno, dunque la terza settimana di novembre, c'è anche una rete di bed and breakfast italiani, sono più di 800, che sono disponibili a barattare, quindi a fare delle settimane del baratto anche in altri periodi dell'anno, e questi si possono consultare sul sito barattobb.it. Focus sui trend. Chiusa oggi a Milano Book City 2015 la grande manifestazione, più di 800 gli eventi in città dedicata al libro e alla letteratura. Oggi allora abbiamo deciso di dedicare il focus sui trend ai consumi letterari, chiamiamoli così per semplificare. In realtà non parliamo, non solo perlomeno, di libri, ma dell'uso che dei libri e della letteratura fanno altri settori di consumo, dalla ristorazione al retail fino alla mobilità. Ne parliamo come sempre con gli esperti, ricercatori di Future Concept Lab. Sabrina Donzelli, bentrovata. Ciao a te, un saluto a tutti quanti. Allora, iniziamo subito dai casi che hai selezionato. Sì, abbiamo selezionato alcuni casi dove è evidente come il libro possa essere stimolo e oggetto di trasmissione di conoscenza anche all'interno di ambiti di consumo, ma fonte di ispirazione non solo necessariamente narrativa. Vediamo ad esempio il caso di Chipotle. Chipotle è una catena Tex-Mex di ristoranti, Tex-Mex negli Stati Uniti, che ha incentrato tutta la campagna pubblicitaria, di comunicazione, ma sul punto vendita, la campagna di quest'anno, incentrata sulla letteratura. Era la prima volta che una catena di fast food si assume delle responsabilità editoriali, addirittura creando dei contenuti letterari originali. Da dove è partito tutto questo? Si narra che lo scrittore Jonathan Safran Foer, frequentatore abituale, lamentava l'assenza di qualcosa da leggere nell'attesa della preparazione del cibo durante il pasto. Questo suggerimento ha portato a quest'idea, cioè riprendere sui bicchieri e sui sacchetti che contengono i vari prodotti dei brevi testi da leggere in pochi minuti, coinvolgendo premi Nobel, coinvolgendo autori diversi, non soltanto statunitensi. È stato un grande successo di comunicazione, un grande successo di diffusione, e quindi vediamo come il consumo può trasformare la comunicazione in un oggetto utile e funzionale. Beh, anziché leggere la lista degli ingredienti, insomma quello che di solito si fa per ingannare il tempo nell'attesa, dei testi letterari sugli stessi supporti, un'idea molto originale e sicuramente vincente. Del resto anche lo stesso nome del progetto, Cultivating Thought, quindi l'idea di coltivare pensieri, è stato centrale. Abbiamo un altro interessante caso, dove in questo caso l'idea di un prodotto e servizio regalato diventa anche un'esperienza sorprendente da condividere. Siamo in Brasile, la giornata mondiale del libro, il 23 aprile scorso, nella metropolitana di San Paolo, sono stati distribuiti gratuitamente 10.000 book tickets, veri e propri libri da leggere nell'arco di qualche fermata di metropolitana durante il tragitto personale, quindi un supporto, un aiuto, uno stimolo per tutti i pendolari. E all'interno di questi libri si trovavano dei carnet con 10 viaggi di metropolitana caricati, per cui le pagine dovevano essere lette al massimo in 10 viaggi in metropolitana. Anche qua i generi, gli autori erano i più diversi, andiamo da Sherlock Holmes, abbiamo Shakespeare, ma anche Peanuts ed altri ancora, con il suggerimento di girare poi a un amico la stessa esperienza e quindi poter ricaricare online queste tessere di viaggio in metropolitana, passando anche il libro a lettura. Un po' book crossing, un po' ticket crossing, ecco, entrambe le cose in pratica. Trovate il video sulla nostra pagina Facebook, andatelo a vedere. Parlavamo, Sabrina, all'inizio di contaminazioni. Con il prossimo caso ci spostiamo a Tokyo. Ci spostiamo a Tokyo, dove lo stimolo in questo caso nasce dal contesto. Il contesto, lo scenario delle biblioteche, delle librerie, che qui è al centro, il silenzio, il rispetto per il luogo e l'oggetto libro che si respira all'interno delle librerie. E in questo caso lo studio di progettazione Nendo ha creato una beauty library. Si vendono oggetti dedicati alla bellezza e al benessere, ma tutta la creazione dell'ambiente e degli spazi di vendita si ispira alle classiche librerie, quindi alternando spazi e volumi proprio con un'eleganza, un'essenzialità, proprio come nella nostra memoria e nella nostra esperienza legata alla libreria, luminoso, femminile, discreto. Ecco, diciamo che in questo caso è proprio la ricreazione di un ambiente e di una modalità di interfacciarsi, relazionarsi al prodotto di consumo che ha visto nel libro e il suo centro. Abbiamo spazio per un ultimo caso. L'ultimo caso ci riporta a Milano, è successo alla fine di settembre, ma è assolutamente significativo. Era un ennesimo appuntamento del Bombing Poems, il progetto cileno che ha invaso di arte poetica anche in passato i cieli di Londra, partendo dal 2012, Berlino, Varsavia, Dubrovnik ed altri, praticamente città che hanno sperimentato, ahimè, i bombardamenti aerei, che sono state prese di mira durante l'evento Milano il 26 settembre da un bombardamento di poesia dall'alto. Sono piovuti dal cielo verso l'orario dell'aperitivo 100.000 segnalibri con versi e liriche di poeti italiani e cileni. Quindi erano parole d'amore e di pace che piovevano dal cielo. In questo caso è un segno di, come dire, di speranza in versi per ricostruire la memoria storica e rendere in qualche modo attuale, concreto, il mettere i fiori nei vostri cannoni, con uno scroscio con alto tasso artistico e scenografico. Grazie Sabrina, alla prossima. Grazie a te, a presto. Il consumautore. Passiamo alla riflessione finale sulle parole chiave del marketing e della comunicazione. Sono le parole che ci aiutano a riflettere sulle piccole e grandi trasformazioni in atto nel mondo dei consumi. E la nostra guida, come sempre, è il sociologo Francesco Morace. Ciao Francesco. Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti i radioascoltatori. Il tema di oggi? Il tema di oggi è longevità, perché l'Italia è uno dei paesi in cui si vive più a lungo, ed è una cosa di cui dobbiamo essere tutti contenti e felici, ma soprattutto è un paese in cui la condizione dell'anziano ha mille sfaccettature, perché abbiamo il senior ancora molto attivo che vive in simbiosi con i nipoti e con i figli, e abbiamo invece magari la persona più isolata. E allora su questo, con il Censis, abbiamo ragionato su un grande progetto per il 2016 che porta ad una maggiore conoscenza di questa condizione, che non è solo quella dell'anziano in carrozzella o malato, ma soprattutto a capire che esistono nuove opportunità proprio su questo territorio. Da qui quindi i profili sociologici, Francesco. È una generazione, però, passando anche al discorso commerciale, che ha una capacità di spesa superiore a quella della generazione successiva. Questo è uno dei cambiamenti di questo momento storico, quindi appetibile per le aziende. Con quale indicazione? Assolutamente è appetibile, perché comunque questi soggetti sono vitali, hanno comunque in media una disponibilità di spesa importante, e hanno il desiderio di, ad esempio, aiutare e sostenere le proprie famiglie. Quindi su questo c'è un nucleo che noi abbiamo definito di family activist, cioè gli anziani, i nonni che sostengono la famiglia come fossero degli attivisti, e lo fanno in un modo non solo economico, ma insegnando le ricette alle nipoti, visto che adesso tutto il mondo del cibo ha questa grande riscoperta, oppure raccontando le storie del passato, seguendo i nipoti e a volte anche i figli nelle loro attività professionali di studio, raccontando, aiutando anche proprio a comprendere alcuni passaggi del passato. Quindi da questo punto di vista abbiamo degli anziani che sono molto interessanti come target. E poi abbiamo una seconda area, che è quella che noi abbiamo definito dei pleasure growers, cioè quegli anziani che vivono una sorta di seconda vita, che hanno deciso di voler dare spazio ai loro piaceri personali. Quindi sono forse gli ultimi edonisti, che viaggiano, che adorano in qualche modo anche la visita dei loro territori, e sono quindi grandi consumatori e che si ritrovano anche tra di loro. Quindi un po' come fanno gli americani, anche gli italiani stanno imparando a rincontrarsi, se a 70-80 anni, sulle proprie passioni, dalla musica alla cucina. Indicazioni preziose per innovazione di prodotto, ma anche storytelling di prodotto, come abbiamo sentito, per prodotti e servizi che spesso, Francesco, questo è un po' l'obiettivo, mettano insieme più generazioni, appunto nonni e nipoti. Assolutamente, i dati ormai ci dicono che questa fascia di anziani vitali impara dai nipoti e dai figli a usare i dispositivi digitali, certo in modo molto semplice, ma basta la connessione Skype per dialogare magari con il nipote che è negli Stati Uniti. E ormai questo riguarda la consegna a domicilio, riguarda gli acquisti online, cioè riguarda tutto un mondo di consumi che ha, devo dire, sottovalutato la forza di questa generazione. Grazie Francesco, a domenica prossima. Grazie a te Maria Luisa. E grazie anche in regia a Paolo Corleoni. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.